عليكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Buonasera, siete collegati con una nuova trasmissione di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Oggi è martedì 5 ottobre e sono da poco passate le 19. Siete in studio con me, Michele, e c'è anche Davide. E come al solito, come di consueto, faremo una rassegna di notizie che provengono dal Medio Oriente, in particolar modo anche dalla Palestina, però come sempre cercheremo anche di parlare di fatti e situazioni che geograficamente ci sono molto più vicini sicuramente. Per esempio, Davide, io direi di iniziare con appunto i vari accordi di cooperazione aerospaziale tra Italia e Israele, che, come scrive Antonio Mazzeo, finiscono anche per rafforzare l'alleanza politica ed economica tra i due paesi. Infatti, come abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di questa trasmissione, appunto i venti di guerra che soffiano proprio in direzione dell'Iran coinvolgono anche l'Italia, che non solo fornisce armi sia a Israele che ad altri paesi del Golfo, ma ha forti accordi militari proprio con i sionisti, sia in termini di esportazione e importazione di armamenti, sia di know-how. Come scrive Antonio Mazzeo, l'articolo è di ieri, 4 ottobre, domenica 26 settembre sono esplosi alcuni impianti all'interno di un complesso industriale ad ovest di Teheran. Il grave incidente ha causato la morte di due operai. Ad oggi le autorità iraniane non hanno chiarito le possibili cause dell'esplosione, ma gli analisti militari occidentali non scartano l'ipotesi dell'attentato. In Iran si registrano con sempre più frequenza strani incendi in impianti e terminal petroliferi e gli attacchi cyber ai complessi industriali strategici. Il dito è puntato contro Israele, ossessionato dalla corsa al nucleare del regime iraniano. Il conflitto in atto non è solo militare. Campagne mediatiche e propaganda ideologica ispirano ogni giorno le relazioni israelo-iraniane. Proprio il misterioso incidente al complesso industriale del 26 settembre, infatti, segna l'ultimo atto dello scontro tra le due parti. Iran International, la rete televisiva antigovernativa che trasmette da Londra, e le maggiori testate israeliane hanno mostrato le immagini satellitari dell'area devastata dall'incendio, spiegando che si trattava di una facility militare, più precisamente di un'installazione missilistica segreta. Alla base delle rilevazioni, il rapporto prodotto da ISI, ImageStat International, la società con quartiere generale a Tel Aviv, che opera in campo aerospaziale nella gestione di sistemi satellitari per conto delle forze armate e di alcune aziende commerciali internazionali. L'esplosione ha riguardato gli impianti dello Shahid Hemat Industrial Group, che è parte dell'Organizzazione delle Industrie Aerospaziali Iraniane, responsabile della produzione di carburante liquido per il programma dei missili balistici, compreso quello per il missile a medio raggio Shahab 3, ha riferito il portavoce appunto di questa agenzia. Vero o falso? Rispondere è impossibile oggi. Ciò che è certo invece è che la società preposta a catturare e trasmettere le immagini via satellite è una delle protagoniste degli ambiziosi programmi israeliani finalizzati al controllo dello spazio e alle future Star Wars, nonché una delle partner privilegiate delle industrie militari e dell'Agenzia Spaziale Italiana. A fine luglio 2021, appunto ISI, questa società che si chiama appunto ImageSat International, e Egeos, azienda leader nella geoinformazione controllata per l'80% da Telespazio, che è appunto controllata da Leonardo Thales, e il restante 20% dall'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, hanno firmato un accordo strategico per offrire i dati della costellazione satellitare di osservazione della Terra più avanzata al mondo. La costellazione virtuale è composta da 8 satelliti complessivi, tra cui 5 satelliti dual use con tecnologia radar Cosmos SkyMed e Cosmos SkyMed di seconda generazione, di proprietà dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa, e di cui Egeos è distributore esclusivo. Appunto questa nota che riporta appunto è stata riportata da Telespazio SPA. Grazie all'accordo di partnership, le due società saranno in grado di offrire ai loro clienti, attuali e futuri, l'accesso a fonti di informazioni, analisi e di livello mondiale. La combinazione di satelliti di diverse tecnologie di rilevamento garantisce infatti capacità di acquisizione ad altissima risoluzione, con bassi tempi di rivisita durante il giorno, la notte e in ogni condizione atmosferica. Sempre secondo i manager di Telespazio, la costellazione satellitare italo-israeliana è destinata, scusatemi, ad espandersi nei prossimi anni con il lancio di nuovi elementi, tra cui ulteriori satelliti Cosmos SkyMed, più 4 nuovi satelliti ISI. 2 del modello EROS-C ad altissima risoluzione e 2 EUROSAR. Bene, come appunto si evince da questo interessante articolo appunto scritto da Mazzeo, gli accordi militari e anche politici a questo punto tra Italia e Israele purtroppo sono destinati a ramificarsi e ad espandersi sempre di più. Davide, se non sbaglio, volevi leggere un appello dei giovani palestinesi? Sì, no, nel senso proprio per contrastare la partnership a livello militare e quindi anche a livello di ricerca scientifica in tal senso tra Italia e Israele. Ovviamente Antonio Mazzeo è un esperto in materia, per questo è importante seguirlo e soprattutto dare visibilità ai suoi articoli. E l'appello infatti dei giovani palestinesi in Italia è proprio quello degli studenti contro l'apartheid. Infatti ve lo leggiamo, infatti afferma: noi studenti e studentesse di scuole superiori e università italiane siamo profondamente turbati della collaborazione tra le università italiane e le università israeliane riguardo alla ricerca militare e allo sviluppo delle armi usate dall'esercito israeliano contro la popolazione palestinese, fornendo un indiscutibile sostegno in questo modo all'occupazione militare e alla colonizzazione della Palestina. Siamo studentesse e studenti palestinesi, parte dell'Associazione Giovani Palestinesi d'Italia, un gruppo indipendente, pluralista, apartitico e laico, composto dalle nuove generazioni palestinesi residenti in Italia. Il nostro obiettivo è dare voce all'aspirazione di libertà e giustizia del nostro popolo attraverso un linguaggio e una pratica che rifiuta qualsiasi forma di discriminazione. Il nostro appello alla mobilitazione della popolazione accademica italiana nasce dalla profonda consapevolezza che le collaborazioni instaurate dalle istituzioni accademiche italiane siano un elemento chiave nel funzionamento del complesso militare-industriale israeliano, poiché contribuisce allo sviluppo di un sapere al servizio dell'apartheid. Numerose università israeliane, infatti, hanno instaurato un rapporto attivo e durevole con l'esercito e l'industria militare israeliana, rendendosi direttamente complici delle violazioni del diritto internazionale che essi commettono. Di conseguenza, collaborare con queste significa rendersi attivamente complici del sistema di occupazione, colonialismo e apartheid di Israele, negando alle palestinesi e ai palestinesi i loro diritti umani fondamentali, inclusi la libertà accademica e il diritto all'istruzione. Sono sempre più numerose, infatti, le violazioni che riguardano studenti e studentesse, docenti e ricercatori e ricercatrici, che quotidianamente affrontano arresti, minacce e intimidazione, ai checkpoint, sgomberi forzati di edifici scolastici e altre forme di oppressione. Invitiamo a tal fine la popolazione studentesca e accademica, insieme a tutte le persone che credono negli ideali di giustizia e libertà, a proseguire gli sforzi di mobilitazione, facendo pressione sugli organi istituzionali per la revoca degli accordi di cooperazione, che si rilevano essere una garanzia di normalizzazione e legittimazione di uno Stato che quotidianamente viola il diritto internazionale. Considerato che intellettuali, critici, donne e uomini di coscienza si sono storicamente presi la responsabilità morale di combattere l'ingiustizia, come esemplificato dalla lotta per l'abolizione dell'apartheid in Sudafrica, considerato inoltre che un numero crescente di università, associazioni o singoli accademici e gruppi studenteschi in tutto il mondo si sono mobilitati contro la collaborazione con università e centri e ricerche israeliani, complici in violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani e in piena continuità con le campagne internazionali, chiediamo alle nostre e ai nostri colleghi di scuole superiori e di università, alle docenti e ai docenti, alle ricercatrici e alle ricercatrici, di porre fine a ogni forma di complicità con il complesso militare industriale israeliano e chiediamo l'interruzione di ogni forma di cooperazione accademica e culturale con le università israeliane, complici di un sistema di apartheid implementato sulla popolazione palestinese. Questo appello si rivela essere un'opportunità per le nostre università e scuole italiane di unirsi alle innumerevoli campagne internazionali che chiedono giustizia, libertà e uguaglianza per tutti. فلسطيني حاس حالي غريب جواتو لا بلد جواتو لا بلد اكيد صالات كومي بوتسوانا كو سي تو ميم با فيزي كاس توا داجي شانج دو نو كوم استانا بيان با باريس سي سافي با با 20,000 in the bank, yeah, I'm ready to give it away. I don't really give a fuck about money and I don't care about a stay. لو كانت في ايدي, you already know what I do, حبيبي. ولا كيفك يا سيسي, عالسجن انت وبيبي, yeah. I'm running around in my city, gang in the back and they litty. Fear to cover our faces. From Gaza to Yaffa, they with me. Fuck all the talking, I wanna see action. My identity is not a reaction. Golf status in the back, just for a couple of racks. You see how they doing us? The images that you be seeing on TV ain't nothing to do with us. They pin us against one another. They love when we fight, cause they using us. Taking our homes, tearing them down, and they clear if they moving us. They wish they would do with us. فلسطيني مضطرب بطبيعته بسخط الدنيا اللي باع قضيته قاعد بيزرع بس بايده شعراتي على رسيده جدي غير حاجه بابه دعني walking in a room and they looking at me trying to get rich so my yeah trying to get rich so my brothers can eat I hop in a whip and I go to Janine taking you with me to show you the scenes it's nice over here but the grass isn't green تعالي عالضفي لنشوف شب جديد yeah 20 of us in the back 40 of us in the front, yeah 27 Mac 11s, they taunting them bitches, they do it for fun, yeah J'finirai assassiné comme Sankara, oh, oh yeah Y'a qu'à Gaza, j'peux atteindre le Nirvana, oh, yeah, yeah I'm running around with the top down, willing to take all the hate The new generation will break up the cycle created by Britain the Great The moment that we saw that video, George Floyd, and you know we relate. Yeah, it's life for less economically, but fuck it, you know what our body is state. I don't see how they doing us. Yeah, the images that you be seeing on TV ain't nothing to do with us. They print us against one another, they double we fight cause they using us. Taking our homes, tearing them down, and they claim that they moving us. They'll never be doing us. Like a motherless child. man. Wipe us off the map, now they looking for another land. I'm yearning for my mother, man. Marty, Sitti, Immi, Ukhti, Yama, Falastin, Habibti, Inti, Hopti. Tell me, can we bring you back from the dead? Israel's knee is still on our fucking head. 7 decades later and they still fucking killing kids, locking them up and making them feel motherless. Then they release them to despair. Depression, suppression, oppression, all the motherfucking pressures, and you can't breathe the air. And Gaza, the people can't bear. Yalla! Locked and loaded and I'm running, never lie down. I smell illegal phosphorus up in the sky now. In their heart I know they'd rather see us die now. Dear Lord, can you please give us a sign now? We tied down, apartheid is right now. We cry now for basic human rights now. No time to fight, we fight right now. Take it to the streets cause our light shines bright now. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime. I'm really looking for a peaceful resolution, but it must come from all the people that are looting, steady shooting at my sister and my brethren. Like a coward on the rooftop of the settlement. Bang, bang, who's that breaking down my fucking door? The IDF and they're screaming fucking hit the floor. They took my dad and they call my mama fucking whore. I'm 10 years old and I don't know what they took him for. This the life of a Palestinian in the West Bank and Gaza Strip. If you ain't feeling my people's pain, you can miss me with this shit. Really, I'm on a mission, pay attention to these wise words. We didn't ask for you punk-ass supervisors. Vicious colonizers, all you do is lie first. On the TV, two American sympathizers. In reality, the situation's different. The Muslims and the Christians suffer from the same system. We're occupied behind the concrete wall. I'd rather die than live my life beneath y'all. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime. Bene Michele, andiamo a rimarcare l'appello dei giovani palestinesi, anche perché è importante appunto nelle scuole e nelle università bloccare qualsiasi forma di collaborazione che legittimi l'occupazione e l'apartheid in Palestina. E quindi facciamo anche noi, lo facciamo nostro questo appello nel diffonderlo anche alle compagne e ai compagni nelle scuole, ai docenti, alle ricercatrici, appunto di fare in modo che queste collaborazioni cessino, proprio perché queste collaborazioni fanno parte di una forma di legittimazione dell'occupazione della Palestina da parte di Israele. Sì Davide, ben detto. E infatti proprio in tema di occupazione parliamo appunto di Gaza. Infatti secondo Euromed gli abitanti di Gaza vengono avvelenati lentamente. Il 97% dell'acqua è imbevibile. Appunto secondo Euromed Monitor i palestinesi che vivono nella striscia di Gaza stanno morendo lentamente anche a causa della scarsità di acqua potabile, tant'è che una dichiarazione congiunta rilasciata dall'Euro Mediterranean Human Rights Monitor e dal Global Institute for Water praticamente alla conferenza per la salute, scusatemi, alla 48esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, hanno rivelato che appunto il blocco israeliano a lungo termine ha causato un grave deterioramento della situazione della sicurezza idrica a Gaza e che il blocco israeliano ha contaminato il 97% dell'acqua, mentre i residenti dell'enclave assediata sono costretti ad assistere al lento avvelenamento. E infatti appunto secondo questi dati che sono giunti le falde acquifere di Gaza risultano completamente avvelenate e soprattutto ci sta il problema, come al solito il peggiore tra questi problemi, che è appunto il trattamento delle acque reflue che ci sono. Nel rapporto vengono affrontate quelle che sono le le varie criticità legate alla situazione idrica di Gaza, che è una popolazione, come si legge testuali parole, civile, ingabbiata in una baraccopoli tossica dalla nascita alla morte e costretta ad assistere al lento avvelenamento dei propri figli e dei propri cari a causa dell'acqua che bevono e probabilmente dal terreno, senza alcun cambiamento in vista. Quindi questa è solo una delle notizie che ci giungono dalla Palestina occupata, come per esempio il fatto che ieri un'orda di coloni ha dato fuoco ad un vasto tratto di terra coltivata nell'area di Burin, nel sud di Nablus, in Cisgiordania occupata. Secondo fonti locali, i coloni dell'insediamento illegale di Tzar hanno incendiato gli uliveti e sono fuggiti dalla zona. Domenica, nella stessa area, i coloni hanno anche tagliato decine di ulivi appartenenti ad alcuni agricoltori palestinesi. Con l'inizio della stagione della raccolta degli ulivi, i coloni che vivono illegalmente in Cisgiordania lanciano attacchi contro gli uliveti, in particolare quelli situati vicino agli insediamenti e agli avamposti. La stagione della raccolta delle olive nere, un tempo un momento gioioso per le famiglie palestinesi che celebrava l'evento agricolo annuale e il loro legame con la terra, ma da molti anni ormai la raccolta delle olive avviene all'ombra dell'espropriazione della terra, delle restrizioni israeliane imposte all'accesso dei palestinesi alle restanti aree di terra e agli attacchi dei coloni e ai raccoglitori e agli atti di vandalismo appunto contro gli alberi. Questa è una delle notizie, insomma, di questa rassegna. Un'altra, per esempio, ci porta a Sheikh Jarrah, e infatti secondo il tribunale israeliano alcune famiglie di Sheikh Jarrah potranno rimanere nelle loro case per 15 anni ma come inquilini, tant'è vero che dovranno anche pagare una somma per l'affitto. E infatti l'Alta Corte di Giustizia israeliana ha fornito alle quattro famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah, che lo ricordiamo è un quartiere di Gerusalemme Est, un'offerta che consentirebbe loro di rimanere nelle loro case per 15 anni come inquilini protetti, si legge tra virgolette. Infatti la sentenza inserirebbe anche la società Nahalat Simon, di proprietà ebraica, come proprietaria, e le famiglie palestinesi sarebbero costrette a pagare l'affitto biennale per una somma di 2.400 shekel, $743. Le famiglie palestinesi dovrebbero anche pagare le spese legali e giudiziarie per la somma di 30.000 shekel, $9.300 circa, alla Nahalat Simon Company. La Corte ha aggiunto che nel corso dei 15 anni la questione della proprietà della terra potrà essere decisa. Quindi diciamo che ancora continuano le dispute rispetto appunto al quartiere di Gerusalemme Est di Sheikh Jarrah, e quindi continua la pulizia etnica e l'espulsione della popolazione palestinese da parte delle forze sioniste, tant'è che l'OSHA riferisce che ad agosto Israele ha sfollato 100 palestinesi dalle loro case proprio a Gerusalemme Est. Infatti nella Gerusalemme occupata quasi 100 palestinesi sono stati mandati via dalle loro case ad agosto, registrando il numero più alto di sfollamento in un mese a Gerusalemme Est per quest'anno. Secondo il rapporto mensile delle demolizioni e sfollamenti israeliani, pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari OSHA, proprio nel territorio palestinese occupato. E infatti è riportato che 26 case sono state demolite da Israele o dai loro proprietari con il pretesto di essere state costruite senza permesso, cosa molto difficile da ottenere per i palestinesi nella città occupata. I proprietari sono stati costretti a demolire le loro case poiché dovrebbero pagare costi molto alti al comune israeliano di Gerusalemme Ovest per la demolizione. delle 53 case demolite dall'inizio dell'anno, 38 sono state abbattute dai proprietari proprio per evitare questo tipo di sanzioni pecuniarie. Sugar, sugar, sugar. نظرت عيونك جننت القلوب والبسمة بجبايبك بيدوبني دوب بنظرت عيونك جننت القلوب والبسمة بجبايبك بيدوبني دوب بنظرت عيونك جننت القلوب والبسمة بجبايبك بيدوبني دوب أنا من حبك انت ما قادر أتوب أنا من حبك انت ما قادر أتوب سكر سكر سكر سكر سكر سكر رمش عيونك يا سمر أحلى من العسل أحلى من العسل سكر سكر سكر Michele, prima ci dava alcune informazioni sulla striscia di Gaza e ci tenevamo anche a sottolineare l'importante inchiesta che è stata pubblicata su Pagine Esteri di Valeria Cagnazzo proprio sui territori palestinesi occupati e come la sanità sia lo specchio appunto dei diritti negati. Io ovviamente vi rimando alla lettura completa, più che altro vi volevo evidenziare alcuni dati che riprendeva l'autrice, che erano i dati dell'OMS relativi al 2019, in base ai quali infatti il 40% della popolazione palestinese in Cisgiordania a Gaza ha meno di 14 anni e solo il 5% almeno 65 anni. L'aspettativa di vita nel 2018 era di 73 anni e 9 mesi e la mortalità infantile si aggirava intorno a 17 casi su 1000 nati vivi, con vette di 20 morti su 1000 nei bambini sotto i 5 anni. Il 10% delle morti, secondo il Ministero della Salute palestinese, è determinato infatti da decessi perinatali e malformazioni congenite. L'8,1% è causato da malattie infettive, il 2,8% da incidenti e aggressioni. Nella comunità di coloni israeliani residenti in insediamenti in Palestina, l'OMS sottolinea come l'aspettativa di vita sia di 9 anni più alta e la mortalità infantile 6 volte inferiore rispetto a quella palestinese. Le malattie infettive, le malattie croniche o oncologiche e le severe disabilità causate anche dai conflitti rappresentano le principali problematiche per il sistema sanitario palestinese. Ad esse si aggiunge la questione della salute mentale, molto spesso trascurata. Infatti, uno studio dell'OMS del 2017 ha rivelato che la Palestina detiene il primato per maggiore incidenza di disturbi mentali del bacino del Mediterraneo. Sono diffusi la depressione, il disturbo post-traumatico da stress, l'ansia, la schizofrenia e il disturbo bipolare, e almeno 250.000 palestinesi richiederebbero un percorso di assistenza psicosociale. Il 52% dei casi di tentato suicidio si verificano nella fascia di età tra i 16 e i 25 anni. Il diritto alla salute per questo non è scontato per la popolazione in Palestina e la responsabilità nell'elargizione dei servizi sanitari è frammentata come il suo territorio ovviamente. Infatti il sistema sanitario dei territori occupati è responsabilità dell'ANP e di Israele come entità occupante, quello di Gaza dell'autorità de facto al potere, quindi di Hamas, ma con il passare degli anni è diventata sempre più profonda la dipendenza da aiuti economici esterni e dalle donazioni ovviamente delle organizzazioni umanitarie. Infatti il 71% delle cliniche per le cure primarie in Cisgiordania è gestita dal Ministero della Salute a fronte del 34% a Gaza, dove giocano un ruolo quindi decisivo l'UNRWA e il lavoro delle organizzazioni non governative. Gli ospedali sono in tutto 82, dei quali 30 nella striscia di Gaza. La capienza di quest'ultimi è per circa il 70% gestita dal Ministero della Sanità e per il resto dipende da ONG. Quanto alla disponibilità di medicinali, ovviamente il blocco alle importazioni rappresenta il limite drammatico, soprattutto per quanto riguarda la striscia di Gaza, dove il 42% dei medicinali essenziali, che comprende antibiotici, antivirali e sani, è completamente esaurito. Questo nel 2019, considerando anche i bombardamenti di quest'anno e i gravi danni inflitti alla striscia, bombardando anche l'unico complesso dove venivano processati i casi di Covid, si rende conto appunto della drammaticità della situazione e soprattutto di come il diritto alla salute venga negato e sia comunque lo specchio dell'occupazione. Bene, torniamo in diretta parlando appunto dei prigionieri palestinesi. Infatti sappiamo che sono in sciopero della fame, tant'è vero che la Croce Rossa ha dichiarato che due detenuti in sciopero della fame sono appunto in gravi condizioni di salute, e il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha espresso grave preoccupazione per il deterioramento appunto dei due prigionieri, Kayed Fasfod e Mikad Kawashmeh. che sono due palestinesi detenuti amministrativamente e sono ricoverati in ospedale in Palestina occupata, quindi nei territori cosiddetti israeliani. Infatti il medico che li ha visitati della Croce Rossa ha dichiarato proprio che i due, che rispettivamente sono in sciopero della fame da 82 giorni e da 72 giorni, sono in gravi condizioni di salute e si monitora attentamente la loro condizione. Purtroppo queste sono notizie che sono all'ordine del giorno, perché appunto in realtà Mikad Qasmeh, che è un 24enne di Hebron, lo scorso 1 ottobre, appunto, è entrato nel suo 70° giorno di sciopero della fame e appunto si trova in detenzione amministrativa senza alcun tipo di processo né accusa palesata. Lui, come altri prigionieri palestinesi, sono stati spostati negli ospedali israeliani. E nel frattempo, proprio 5 giorni fa, i prigionieri che sono evasi dal carcere di Gilboa sono stati smistati in varie carceri, e si continuano, le autorità sioniste, insomma, continuano a evitare che ci siano contatti con i legali e i familiari di questi detenuti. Nel frattempo però proseguono gli arresti indiscriminati nella Palestina occupata, tant'è vero che secondo questa associazione di prigionieri, il Club del Prigioniero, afferma che solo nel mese di settembre ci sono stati appunto 54 arresti. E anche perché questa associazione ha aggiunto in un comunicato stampa che l'occupazione ha intensificato la campagna di arresti a Jenin dopo la fuga dei 6 prigionieri dalla prigione israeliana di Gilboa lo scorso 6 settembre. E quindi nel corso di queste operazioni sono stati arrestati 48 palestinesi, di cui 16 familiari dei 6 evasi. Quindi le forze di occupazione a Jenin hanno compiuto violazioni e abusi in modo sistematico, i più gravi dei quali sono stati la punizione collettiva e arbitraria che ha colpito le famiglie appunto dei 6 prigionieri. Questi, Davide, sono gli ultimi aggiornamenti appunto che diamo rispetto a questa situazione, e infatti, come diciamo spesso durante queste trasmissioni di Andala, lo ricordiamo in continuazione, che uno appunto degli strumenti dell'occupazione sionista in Palestina è proprio quello dell'incarcerazione di massa. Infatti poi magari in chiusura leggeremo pure quelle che sono le ultime statistiche legate ai prigionieri palestinesi, che sono sempre nei nostri cuori, così come tutti i prigionieri. Arrestato per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni, passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra. È colpa vostra! Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa vi è mutato. Potrei uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio. Troppo! Troppo da difendere, tutelare, dignità, identità, non ho niente da vendere, troppo! Troppo da difendere!

lo è stato per tanti anni, e soprattutto ricordarlo, tenere bene a mente che comunque ciò che ha fatto Ali non è rimasto, come possiamo dire, è germogliato in un qualcosa che continua ad andare avanti, è germogliato nel centro culturale Andara Ali, perché il centro culturale Andara Ali è Ali, è la prosecuzione delle sue idee, della sua lotta e soprattutto del suo impegno, della sua umanità. Ci sarà alle 17, vi ripeto, a Santa Fede Liberata a Napoli, alle ore 17 ci sarà appunto il ricordo per il compagno Ali, e alle ore 18:30 ci sarà anche la presentazione del libro dell'Eco delle Catene, la detenzione dei prigionieri politici nelle carceri israeliane, di Aman Sadat, che come ben sapete è attualmente nelle carceri in mano all'occupante. E a seguire ci sarà una cena palestinese, quindi sarà un bel modo anche per stare insieme, per confrontarsi in una giornata di ricordo, che sicuramente nel pensare a Ali ci viene un momento di commozione, ma sarà anche, penso che per Ali sia il modo migliore per ricordarlo, e forse gli regaleremo una gioia da ovunque egli sia, nel senso che il suo impegno non è rimasto inattivo e comunque prosegue ancora la lotta per la Palestina senza compromessi. التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم